colpa delle favole. Mi hanno sempre illuso un po' quando fuori piove, perché il mondo mi ha deluso un po'. Colpa della musica, mi ha reso gli occhi amari un po'. Guardo fuori il sole e mi chiudo in un respiro. Sai, mi chiedo troppo spesso dove va a finire un fiore quando corri dentro un prato e non ti servono parole. Mi chiedevo tu come stai, è un po' che non ti sento ormai. Vorrei portarti al mare, ma non ho più belle parole, perché il tempo ha preso tutto e ha preso anche il nostro amore. Vorrei parlarti come prima, con la stessa intensità, ma quando vivi troppo insieme poi qualcosa se ne va. E non mi sento mai all'altezza di stare con te. Colpa della vita, che mi ha steso in questo posto senza avermi chiesto prima almeno un tipico permesso, e non ci riesco mai a far finta che poi vada bene. Tu dici te ne pentirai, sai, mi chiedo troppo spesso dove va. Corri dentro un prato e non ti servono parole. Mi chiedevo tu come stai, è un po' che non ti sento ormai. Vorrei portarti al mare, ma non ho più belle parole, perché il tempo ha preso tutto e ha preso anche il nostro amore. Vorrei parlarti come prima, con la stessa intensità, ma quando vivi troppo insieme poi qualcosa se ne va. Io non mi sento mai all'altezza di stare con te. Stare con te.